580. Torta frangipane. Un signore veneziano, dai tratti di vero gentiluomo, mi suggerisce questa torta che è di grato e delicato sapore. Farina di patate, grammi 120, zucchero a velo, grammi 120, burro, grammi 80, uova numero 4, cremor di tartaro, grammi 5, bicarbonato di soda, grammi 3, odore di scorza di limone grattata. Lavorate dapprima i rossi d'uovo con lo zucchero, dopo uniteci la farina di patate e proseguite a dimenare col mestolo. Versateci poi il burro sciolto e per ultimo le chiare montate e le polveri. Servitevi di una teglia piccola, onde possa restare alta due dita. Ungetela col burro e spolverizzatela di farina mista con lo zucchero. Potete cuocerla in casa nel forno da campagna.